Savonarola, il frate che fece resistenza a Firenze, stagione 2, un programma prodotto da e per Radio Big World. In realtà sono prose scelte scritte da Pasquale Villari, che le compose in un'Italia dove il numero dei maschi e delle femmine si equivaleva fino ai 15 anni d'età, per poi impennarsi a favore delle femmine, in particolare nella fascia tra i 25 e i 30 anni, e difatti la vita media era di 27 anni. E lette da me, che le ripropongo in un'Italia dove il numero dei maschi e delle femmine si equivale fino alla fascia dei 25-30 anni, per poi impennarsi a favore delle femmine dopo i 60, e difatti la vita media è di 82 anni, un'età per i maschi statisticamente difficile da raggiungere tanto ieri come oggi. D'altra parte dice il proverbio che la mala femmina è come il vischio, non lo tocca uccello che non ci lasci le penne, e comunque la capra giovine mangia il sale e la vecchia il sale e il sacco. Serio, capitolo 4, volume 2, all'arrembaggio! Proprio in questo punto, che la vittoria era decisamente per San Marco e il successo cresceva animo ai difensori, venne proclamato un nuovo bando della signoria che dichiarava ribelli tutti coloro che nello spazio d'un'ora non abbandonassero San Marco. Altri difensori chiesero salvacondotto e partirono, assottigliando così il già troppo piccolo numero dei loro compagni. Il vedersi poi sempre più chiaro come la signoria voleva decisamente opprimere San Marco scoraggiava moltissimo i difensori che, scemati di numero e perduta ogni speranza, già cominciavano a cedere. Il Savonarola, insieme con molti dei suoi frati, era sempre nel coro facendo orazioni che d'ora in ora venivano interrotte dai lamenti di qualche ferito, dalla voce pietosa di qualche moribondo, tra i quali fu un giovane dei panciatici che, ferito a morte, venne menato sui gradini dell'altar maggiore, dove, in mezzo ai colpi degli archibusi, ricevette la comunione per le mani di Fra Domenico, nelle cui braccia tutto lieto spirava dicendo: «Quanto è dolce ai fratelli ritrovarsi insieme!» Era intanto sopraggiunta la notte e i frati, stanchi dall'agitazione e dal digiuno, mangiavano alcuni fichi secchi che uno di loro aveva portati ai compagni. Quando ecco ad un tratto ingagliardire di nuovo la difesa, crescere più furiose le grida, moltiplicare i colpi d'archibugio, fra i quali più frequenti si distinguevano quelli del tedesco Enrico, che, salito su quel Pergamo dove il Savonarola aveva tante e tante mai volte predicato, di cui vi tirava i suoi colpi micidiali. Dappertutto cominciava ora ad entrare un fumo così denso che, per non affogare, bisognò rompere i cristalli alle finestre del coro. Ma ecco già dalle porte, che finalmente s'erano bruciate, avanzarsi grandi fiamme nell'interno del la chiesa. Allora il tedesco ed un altro venivano nel coro portando due archibugi che, saliti dietro all'altar maggiore, piantavano accanto al gran crocifisso di dove continuavano a far fuoco. Il Savonarola, dolentissimo di vedere per cagion sua tanto inutile spargimento di sangue, né potendolo in alcuna maniera impedire perché niuno più gli dava ascolto, prese di nuovo il sacramento in mano, imponendo a ciascuno di seguirlo. Passando per i chiostri conduceva quasi tutti nella libreria greca, quando gli venne veduto Fra Benedetto che, allora, sceso dal tetto, tutto armato e pieno di furore, correva per andare a combattere i nemici più da vicino. Fermatosi allora, il Savonarola gli fissò addosso i suoi occhi, dicendo in tuono di grave rimprovero: «Fra Benedetto, lascia le armi e prendi la croce! Io non ebbi già mai intenzione che i miei frati spargessero sangue!» E l'altro, umiliatosi ai piedi del suo superiore, depose le armi e insieme con tutti lo seguiva nella libreria greca. In mezzo a quella sala, sotto quelle semplici volte del Michelozzi, egli pose il sacramento e vi raccolse intorno i frati, dirigendo loro le sue ultime e memorabili parole: «Figlioli miei, innanzi a Dio, innanzi all'ostia consacrata, coi nemici già nel convento, io vi confermo la mia dottrina. Quel che io ho detto l'ho avuto da Dio, ed egli mi è testimonio in cielo che io non mento. Non mi era noto che tutta la città dovesse così presto rivolgersi contro di me. Pure sia fatta la volontà del Signore. Il mio ultimo ricordo è questo: la fede, la pazienza e le orazioni siano le vostre armi. Io vi lascio con angoscia e dolore per andare in mano degli avversari. Non so se mi priveranno della vita, ma certo sono che morto vi potrò aiutare in cielo più di quello che non ho potuto far vivo in terra.» Intanto i nemici erano padroni di quasi tutto il convento e Giovacchino della Vecchia, comandante la guardia del palazzo, minacciava di rovinare con le artiglierie ogni cosa se non si obbediva ai comandi della signoria, la quale richiedeva adesso, sotto la fede però di non toccare le persone loro, che fossero consegnati fra Girolamo, fra Domenico e fra Salvestro. Allora Malatesta Sacromoro, quel medesimo che s'era offerto di entrare nel fuoco, incominciò a fare la parte del Giuda, trattava coi compagnacci e li persuadeva a portare l'ordine scritto. E mentre che per averlo e si mandavano ai signori, il Savonarola si fece confessare e comunicare da Fra Domenico e s'apparecchiava ad arrendersi insieme con lui, giacché frate Salvestro si era nascosto, né in quel trambusto era facile ritrovarlo. Seguiva in questo mezzo un fatto assai singolare. Girolamo Cini, seguace del Savonarola e da lungo tempo desideroso di vestir l'abito domenicano, s'era trovato quel giorno al vespro ed appena cominciato il tumulto s'armò per difendere il convento. Quando il Savonarola comandò di deporre le armi, il buon popolano obbediva, non di meno correva per i chiostri e presentavasi ai nemici volendo, come egli stesso dice, affrontare la morte per amore di Gesù Cristo. Ed essendo stato ferito, egli entrava adesso col capo tutto insanguinato nella libreria greca, dove inginocchiatosi innanzi al Savonarola umilmente chiedeva l'abito che gli veniva concesso in quell'istante medesimo. Alcuni amici proposero allora al Savonarola che si lasciasse calar dalle mura per mettersi in salvo, giacché non era facile, entrato una volta in palazzo, che ne uscisse più vivo. Egli sembrava esitare alquanto ad accettare quest'unico mezzo di salvezza, quando Fra Malatesta, rivoltosi a lui, gli disse: «Non deve il pastore metter la vita per le sue pecorelle?» Tali parole sembrarono toccar profondamente l'animo del Savonarola, che non dette alcuna risposta, ma, abbracciati e baciati tutti i suoi frati e prima d'ogni altro lo stesso Malatesta, si arrese senza più esitare, insieme col suo fedele e indivisibile Fra Domenico, nelle mani dei mazzieri della signoria che allora appunto ritornavano. Egli era già in mezzo di loro quando si rivolse nuovamente ai frati dicendo: «Fratelli miei, rammentatevi di non dubitare, l'opera del Signore andrà sempre innanzi e la mia morte non farà che accelerarla!» Appena i due frati furono discesi nei chiostri, che subito la folla si strinse intorno a loro con grida di gioia feroce, ed in questo momento Fra Benedetto, che sino ad ora li aveva seguiti, non potette più resistere allo strazio del suo cuore, singhiozzando e piangendo si spinse tra la moltitudine dicendo di volere andar prigione col suo maestro, ma tutti erano ebri di furore ed un'altra onda di popolo trasportò Fra Girolamo e Fra Domenico nella piazza San Marco, e Fra Benedetto rimase tristo e desolato nel chiostro. Egli ci racconta che si udirono allora grida così terribili da far credere ad ognuno che il Savonarola venisse in quel momento stesso ucciso. Erano le 8 della sera, i mazzieri lo legarono e la folla, addensatasi intorno a lui, faceva come un mare tumultuoso d'elmi, di corazze, di spade e lance illuminate dal fosco lume delle lanterne e delle torce. Lo guardavano con volti minacciosi, gli accostavano agli occhi le lanterne e gridavano: «Eccolo il vero lume!» Gli abbronzavano e bruciavano il viso con le fiaccole dicendo: «Ora, da volta alla chiavetta!» Gli storcevano le dita e lo picchiavano insultandolo col dire: «Profetizza chi ti ha percosso?» Fu tale e tanta questa furia che le guardie a fatica poterono salvarlo, incrociando sopra di lui le armi e gli scudi. Gli insulti che ebbe a sopportare per la via si possono più facilmente immaginare che descrivere. Nella efferrata moltitudine si stancò fino a che egli non fu entrato in palazzo, anzi aveva già messo il piede nello sportello quando uno di loro, datogli un calcio di dietro, diceva: «Ecco dove egli ha la profezia!» Condotti finalmente i due frati innanzi al confaloniere, questi domandò se persistevano a sostenere che le loro parole venivano da Dio, ed avendo essi risposto affermativamente, furono chiusi in due carceri separate. Al Savonarola toccò l'alberghettino, piccola stanza nella torre di palazzo, dove in altri tempi era stata prigione Cosimo de' Medici, e quivi per la prima volta, dopo un giorno così travagliato, trovò un poco di riposo. Quella medesima notte venne arrestato suo fratello Alberto, che si trovò per caso in Firenze, ma poi fu subito rilasciato. Il giorno appresso Fra Salvestro uscì dal suo nascondiglio e subito fu dal Sacromoro consegnato ai nemici, che sino all'alba avevano gozzovigliato con delicati cibi sulla povera mensa dei frati. Intanto la signoria affrettavasi ad annunziare subito a Roma, a Milano, in Francia e ad altre corti ciò che era avvenuto la sera dell'8 febbraio, colorendo i fatti a suo modo e secondo l'indole dei governi a cui scriveva. Commettevano poi all'oratore in Roma che impetrasse dal Papa una generale assoluzione di tutte le censure in cui si poteva essere incorsi, tanto per aver lungamente tollerato le prediche del Savonarola come per aver messo le mani sopra persone ecclesiastiche. Chiedevano inoltre licenza di poter giudicare quei frati e nel medesimo tempo pigliavano questa occasione per sollecitare l'affare della decima ecclesiastica. Ognuno può immaginarsi con quanta sollecitudine il Papa rispondesse ai signori fiorentini. Li chiamava figlioli di vera Santa Chiesa, concedeva ogni assoluzione, ogni facoltà richiesta, ogni benedizione. Raccomandava solo caldissimamente che, non appena giudicati quei frati, fossero subito dati nelle sue mani per far loro subire la meritata pena. Quanto alla decima e a tutto il resto, faceva larghe promesse. Così anche il duca di Milano mandava con staffette espresse lettere di congratulazione. Voleva aiutare la Repubblica, voleva sostenerla in tutti i pericoli, renderle Pisa in pochi giorni e via discorrendo. Ma le nuove più grate ai nemici del Savonarola avvenivano donde meno erano aspettate. Le ultime lettere di Francia narravano come il giorno 7 aprile, quel giorno medesimo in cui doveva aver luogo in Firenze l'esperimento del fuoco, Carlo VIII di Francia era morto in Amboise. E la sua fine fu misera, come tante volte il Savonarola aveva predetto che sarebbe stata, per avere quel re abbandonato l'opera del Signore. Preso a un tratto da un colpo d'apoplessia, fu menato in un luogo pieno d'ogni più schifosa bruttura, e quivi il re di Francia, posato sopra la paglia, dava l'ultimo fiato. Giammai però alcuna profezia non s'era meno opportunamente verificata e con maggior danno del profeta stesso. Il Savonarola perdeva in Carlo il suo ultimo e più valido sostegno, lo perdeva quando da lui solo poteva dipendere la propria salvezza, nel momento appunto in cui il re sembrava volgere di nuovo i suoi pensieri alle cose d'Italia e alla riforma religiosa. Ma noi lo abbiamo già detto, ormai non bisogna più illudersi, tutti gli eventi e tutti gli uomini si volgono a danno del misero frate, egli non ha più nulla a sperare su questa terra.